fare e allora via, via da chi ti guarda male, perché chi cova per distrazione, povera l'odio con più attenzione. L'odio è come il mondo, ama troccolino, sempre va e viene perché gira in tondo. Chi ce l'ha messo qua? Chi ce l'ha messo? Quell'uovo grosso scuro.